Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Il giovanotto andava su e giù apparentemente senza grande sforzo, contando ad alta voce. Portava i pantaloni di una tuta grigia, una cuffia sulle orecchie e nient'altro. Era arrivato a 11. Mrs. Ransom aspettò con la lettera in mano, non sapendo bene dove guardare. Era da tempo che non si trovava così vicina a un uomo così giovane e così nudo, dato che i pantaloni gli erano scivolati sui fianchi, lasciando scoperta la sottile riga di peli biondi che risaliva il ventre piatto fino all'ombelico. Il giovanotto era ormai piuttosto stanco, sicché le ultime due trazioni, la 19 e la 20, gli costarono notevole fatica e dopo quasi aver gridato 20, restò lì ansimante con una mano ancora aggrappata alla sbarra e la cuffia intorno al collo. Sotto le ascelle gli crescevano due pallide aiolette di peluria e sul petto ne era appena accennata una terza. Come Martin, anche lui aveva il codino, ma più lungo e avvolto in un nodo. Mrs. Ransom si disse che non aveva mai visto un uomo più bello in vita sua. «Ho portato una lettera!» ricominciò. «Mi è arrivata per sbaglio!» Così dicendo gliela tese, ma il giovanotto non fece neanche il gesto di prenderla. Allora lei si guardò intorno in cerca di un posto dove appoggiarla. Al centro della stanza c'era una lunga fratina e accanto al muro un divano quasi altrettanto lungo, unici oggetti della stanza che Mrs. Ransom avrebbe definito mobili veri e propri. Sparsi in giro vide dei cubi di plastica variopinti che, immaginò, potevano fungere da tavolino oppure da sgabello. C'era un'altra piramide d'acciaio bucherellata che le sembrò una lampada e una carrozzina vecchio stile con le ruote a fascia bianca e molle enormi. A una parete era attaccato il collare di un cavallo da tiro, a un'altra un cappello da cavallerizzo e di fianco una gigantografia di Lana Turner. «Era una diva del cinema», disse il giovanotto. «La foto è originale». «Sì, me la ricordo», disse Mrs. Ransom. «Perché? La conosceva di persona?» «No, no», disse Mrs. Ransom. «Comunque era americana». Il pavimento era rivestito da una folta moquette bianca, dove sicuramente sarebbero rimasti tutti i segni, pensò Mrs. Ransom, anche se di segni non ne vedeva affatto. In ogni caso, non le sembrava plausibile la stanza e con quella vetrata che dava sulla terrazza le pareva una vetrina in via di allestimento. Forse avrebbe acquistato un senso se qualcuno avesse elegantemente srotolato sul tavolo una pezza di tweed. Il giovanotto si accorse del suo sguardo. «L'hanno pubblicata su varie riviste», le disse. «Si accomodi?» E le prese la lettera di mano. Si sedette a un capo del divano, lasciando l'altro a lei, e tirò su le gambe. Se Mrs. Ransom avesse fatto lo stesso, fra loro sarebbe comunque rimasto parecchio spazio. Il giovanotto guardò la lettera e la girò un paio di volte senza aprirla. «Viene dal Perù», gli disse Mrs. Ransom. «Sì», rispose lui. «Grazie», e la strappò in due. «Magari era importante», disse Mrs. Ransom. «È sempre importante», disse il giovanotto e la buttò sulla moquette. Mrs. Ransom gli guardò i piedi. Come ogni centimetro quadrato visibile del suo corpo erano perfetti, senza quelle inutili dita ricurve che avevano lei e Mr. Ransom. Queste dita erano lunghe, squadrate, addirittura espressive. Sembrava che all'occorrenza potessero fare le veci delle mani e suonare uno strumento musicale. «Non l'ho mai incontrata in ascensore», gli disse. «Ho una chiave speciale per non farlo fermare agli altri piani». Il giovanotto sorrise. «È comodo». «Non per noi», disse Mrs. Ransom. «Vero». E il giovanotto scoppiò a ridere per nulla risentito. «Comunque, pago di più». «Non sapevo che si potesse», disse Mrs. Ransom. «Voi, infatti, non potete». Mrs. Ransom si fece l'idea che fosse un cantante, ma temeva che se glielo avesse chiesto avrebbe smesso di trattarla alla pari. Si domandò anche se si drogasse. Il silenzio non sembrava certo dargli fastidio, visto come se ne stava allungato dalla sua parte del divano tutto sorridente, assolutamente a suo agio. «Ora devo andare», annunciò Mrs. Ransom. «Perché?» Il giovanotto si tastò un'ascella, poi fece un gesto col braccio mostrando la stanza. «Ha arredato tutto lei?» «Chi?» Lui indicò la lettera strappata. «Lei è il suo mestiere, cioè era. Adesso alleva bestiame in Perù.» «Vacche?» domandò Mrs. Ransom. «Cavalli.» «Oh, che bello!» disse Mrs. Ransom. «Non saranno in tanti ad aver fatto una cosa del genere.» «Che cosa?» «Beh, prima la redattrice, poi l'allevatrice di cavalli.» Lui ci riflette sopra. «No, anche se lei era così, cioè incostante.» Il giovanotto si guardò intorno. «Le piace?» «Beh», disse Mrs. Ransom, «è un po' strana, ma mi piace lo spazio.» «Sì, è un bello spazio, uno spazio geniale.» Non era esattamente quello che aveva voluto dire lei. Il concetto, tuttavia, non le era ignoto, dato che al pomeriggio parlavano spesso di spazio, del bisogno di spazio, di come uno deve prenderselo e creare i suoi confini. «Ha arredato la casa», proseguì il giovanotto, «e poi, ovviamente, è venuta ad abitarci.» «E quindi lei si è sentito...» disse Mrs. Ransom, e avrebbero potuto essere le sue prime parole in urdu, tanto le sembravano strane in bocca sua. «Si è sentito come se avesse invaso il suo spazio.» A conferma, il giovanotto puntò verso di lei uno dei suoi bellissimi piedi. Infatti, prenda per esempio quella carrozzina del Menga.» «Me le ricordo», disse Mrs. Ransom. «Sì, beh, certo», continuò lui. «Il fatto è che, ci creda o no, la carrozzina non sta lì in quanto carrozzina, sta lì in quanto oggetto, e doveva stare precisamente in quel cazzo di posto. E siccome a un certo punto io l'ho spostata, ma tipo di un centimetro, Madame è andata in tilt. Ha minacciato di portare via tutto, di svuotare casa, come se me ne importasse qualcosa. Comunque, ormai è una storia vecchia.» Mrs. Ransom annuì e commentò: «Gli uomini hanno esigenze diverse.» «Esatto.» «Le fa male», disse Mrs. Ransom. «Mi ha fatto molto male», rispose il giovanotto. «Ma adesso sto mettendo la sofferenza in prospettiva. Ti tocca, prima o poi.» Mrs. Ransom annuì con espressione saggia. «E la sua ex come l'ha vissuto?» gli domandò, morendo dalla voglia di stringergli il piede. «Beh, se proprio vuole saperlo», disse lui, «quella vive male qualunque cosa.» E guardò fuori dalla finestra. «Quando vi siete lasciati?» «Ma non so, non ho più la nozione del tempo. Saranno 3-4 mesi.» «Tipo a febbraio?» fece Mrs. Ransom, e non era una domanda. «Sì, giusto.» «Ansom? Ransom?» disse lei. «Non sono proprio identici, però forse per uno del Perù.» Siccome lui non capiva, e d'altronde come avrebbe potuto, lei gli raccontò tutta la storia fin nei minimi particolari. Il ritorno a casa dopo il così, la polizia, la gita a Aylesbury, tutto. Quando ebbe finito, lui commentò: «Sì, potrebbe essere stata lei. Paloma sarebbe capacissima di fare una cosa del genere. Aveva uno strano senso dell'umorismo, sa, e il Sud America.» Mrs. Ransom annuì di nuovo, come se ogni lacuna di quel resoconto potesse essere ascritta al luogo e alla ben nota volubilità dei suoi abitanti. l'incanto della pampa, la lunghezza del rio delle Amazzoni, i lama, i piragna, paragonato a simili fenomeni, cos'era un semplice furto commesso a St. John's Wood? Eppure un interrogativo continuava ad assillarla. «Ma chi potrebbe aver fatto un lavoro così di precisione?» domandò. «Oh, facile, un gruppo di attrezzisti». «Di attrezzisti?» ripeté Mrs. Ransom. «Intende acrobati?» «No, operai di teatro, gente che allestisce la scena. Avranno aperto con un passepartout, scattato le foto, smantellato e poi ricostruito tutto a Aylesbury. Sembra un lavoro da professionisti. Bene o male è roba che quelli fanno sempre, per loro niente è troppo difficile». «Basta pagare», le fece l'occhiolino. «Comunque», e guardò la stanza di Zadorna, «non sarà stata una gran fatica. Casa sua è così?» «Non proprio», rispose Mrs. Ransom. «La nostra è, beh, più complicata». Lui si strinse nelle spalle. «Paloma se lo potrebbe permettere, è ricca. Ad ogni modo», disse alzandosi e prendendole la mano, «mi dispiace che le abbiano dato tanto disturbo per causa mia». «Ci mancherebbe», disse Mrs. Ransom. «Oddio, all'inizio è stata un'esperienza allucinante, ma poi ho cercato di metterla in positivo e sa una cosa? Mi sento cresciuta». Si erano fermati accanto alla carrozzina. «Anche noi una volta ne abbiamo avuto una così», disse Mrs. Ransom. «Per poco». Era una cosa di cui non parlava da 30 anni. «Un figlio?» «Doveva chiamarsi Donald», rispose lei. «Ma non ce l'ha fatta». Ignaro di essere appena diventato il depositario di una rivelazione, il giovanotto si lisciò meditabondo un capezzolo e l'accompagnò nell'ingresso. «Grazie di aver chiarito il mistero», gli disse lei, e col gesto più audace di tutta la sua vita gli sfiorò un fianco nudo, aspettandosi che lui si ritraesse. Ma lui non si ritrasse, né cambiò atteggiamento, e continuò a mostrarsi sorridente e rilassato. Forse, però, anche a lui parve che la situazione richiedesse qualcosa di straordinario, perché le prese la mano e, portandosela alle labbra, la baciò. Un pomeriggio di qualche settimana dopo, rientrando con la spesa, Mrs. Ransom vide un furgone davanti alla casa e nell'atrio un ragazzo con un cappello da cavallerizzo in testa e un collare da cavallo al collo. Stava spingendo una carrozzina. «Mr. Ransom trasloca?» gli domandò. «Eh già», il ragazzo si appoggiò alla carrozzina. «Di nuovo?» «Perché? Succede spesso?» «Signora mia, questo tizio cambia casa come gli altri si cambiano le mutande. E tutta questa roba», indicò la carrozzina, il collare da cavallo e il cappello da cavallerizzo, «va frullata. Stavolta pare che ci facciano casa alla cinese». «Aspetti che le do una mano», gli disse Mrs. Ransom prendendo la carrozzina mentre lui battagliava con la porta. Poi la fece scendere giù per i gradini e rimase lì a dondolarla piano piano intanto che il ragazzo sistemava gli altri oggetti nel furgone. «Era un pezzo che non ne spingeva una, eh?» le disse il ragazzo riprendendola in consegna. Lei si appollaiò con la spesa sul muretto vicino all'entrata e lo guardò avvolgere delle coperte intorno ai mobili, chiedendosi se fosse uno degli attrezzisti che avevano svuotato casa sua. Non aveva raccontato a Mr. Ransom com'era andata la storia del furto, se no chissà che scena avrebbe fatto. Sicuramente sarebbe salito di filato all'ultimo piano per sentire di persona il giovanotto. «Sarà un complice», avrebbe detto. E lei non era riuscita a immaginarsi quell'incontro senza imbarazzo. Quando il furgone partì, salutò con la mano e salì in casa. Fine della storia. o almeno così credeva lei. Se non che, un paio di mesi dopo, una domenica pomeriggio, a suo marito venne un coccolone. Mrs. Ransom, che era in cucina a riempire la lavastoviglie, sentendo un tonfo andò in soggiorno e lo trovò lungo disteso davanti alla libreria con una cassetta in una mano, una fotografia oscena nell'altra e l'illecito in materia di salmone aperto per terra. Mr. Ransom era cosciente, ma non riusciva né a parlare né a muoversi. Lei fece tutto giusto. Prima di chiamare l'ambulanza, gli mise un cuscino sotto la testa e una coperta addosso. Sperava che, seppure in quelle condizioni di infermità, il marito sarebbe rimasto colpito dalla sua efficienza e padronanza di sé. Tuttavia, quando lo guardò mentre aspettava in linea, nei suoi occhi non scorse segno d'approvazione né gratitudine, solo terrore puro. Non potendo attirare l'attenzione della moglie sulla cassetta che stringeva in mano e neppure posarla, l'inerme Mr. Ransom la vide raccogliere svelta le foto e in un lontano recesso della mente constatò quanto poco interesse o stupore suscitassero in lei quelle porcherie ormai consunte. Alla fine, già si udiva la sirena dell'ambulanza che sfrecciava lungo il parco, lei gli si inginocchiò accanto, gli aprì a fatica le dita acere, prese la cassetta e la infilò come se niente fosse nella tasca del grembiule. Poi gli tenne un attimo la mano, ancora piegata nella forma della cassetta sconcia, e rifletté che forse il suo sguardo non esprimeva più terrore, ma vergogna. Sicché sorrise e stringendogli la mano disse: «Non ti preoccupare», nel momento in cui quelli dell'ambulanza suonavano il campanello. Mr. Ransom non viene fuori bene da questo racconto. Apparentemente impermeabile ai casi della vita, al contrario della moglie, non è né cambiato né cresciuto. Se avesse avuto un cane, forse sarebbe apparso in una luce migliore. Ma per quanto comodo fosse il palazzo di Naseby Mansions, data la vicinanza al parco, starsene confinato in un appartamento non è vita da cane. Un hobby sarebbe tornato utile, un hobby però che non fosse Mozart, visto che la ricerca dell'esecuzione perfetta ha contribuito solo a sottolineare la pignoleria del personaggio e la sua generale mancanza di calore umano. No, per imparare a prendere le cose come vengono, gli avrebbero giovato arti più disordinate come la fotografia o l'acquerello. Anche un figlio avrebbe comportato un certo caos. Pensare che adesso, nella mezza età, per lui non contavano che l'ordine e la precisione. Certo, risulta che solo Mrs. Ransom abbia sofferto per la perdita del piccolo Donald, e d'altro canto avere Mr. Ransom per padre non sarebbe stato uno spasso. Ma un figlio, scompigliandogli un po' la vita, avrebbe smussato i suoi spigoli. In sostanza, la colpa che qui gli viene fatta è quella di non essere uscito fuori dal guscio, e può darsi che con un figlio il guscio non si sarebbe formato. Ora Mr. Ransom giace muto e immobile nel reparto di terapia intensiva, e la parola guscio sembra appropriata alla situazione. Da qualche parte sente la voce di sua moglie, vicina e a un tempo lontana e un po' echeggiante, come se anche il suo orecchio fosse un guscio e lui un animaletto lì racchiuso. Le infermiere hanno detto a Mrs. Ransom che il marito ci sente di certo, e lei, ritenendo che egli possa soccombere non tanto al colpo quanto alla vergogna e all'umiliazione dovute alle circostanze, si concentra anzitutto su questo punto. «Se riusciamo a trovare un'intesa a livello fisico», rifletté, «magari questa storia dell'ictus la vedremo come una manna». Pur sentendosi un po' stupida, visto che la conversazione è per forza unilaterale, Mrs. Ransom comincia a parlare al marito inerte, o meglio, essendovi altri ricoverati nel reparto, a bisbigliare al suo orecchio. Dalla coda dell'occhio sinistro Mr. Ransom non vede altro di lei che il declivio incipriato e lanuginoso della sua guancia soccorrevole. Lei gli dice che sapeva da anni del suo peccatuccio, come lo chiama lei, ma che non c'è da vergognarsi, perché in fin dei conti si tratta solo di sesso. Dentro il suo guscio, Mr. Ransom sta cercando di capire cosa sia vergognarsi, e anche sui conti non è più tanto sicuro, per non parlare di sesso. Le parole sembrano essersi scollate dal loro significato. Il buon senso con cui ha affrontato il peccatuccio del marito, intanto, ha esaurito il vocabolario emotivo di Mrs. Ransom. Il fatto di non aver mai parlato tanto di queste cose la lascia per qualche istante a corto di parole. Comunque, per quanto inebetito, a Mr. Ransom questa cosa sta facendo male ed è evidente che devono sviscerare le basi del loro rapporto. Tenendogli la mano floscia delicatamente nella sua, Mrs. Ransom riattacca a bisbigliare, usando quel linguaggio che, ora se ne rende conto, era destinata a fare suo proprio per un'eventualità del genere. «Mi riesce difficile verbalizzare i miei sentimenti, Maurice», esordisce. «Tutti e due abbiamo sempre avuto difficoltà a farlo, ma vedrai, impareremo». Premendo le labbra sopra l'orecchio inamovibile di lui, Mrs. Ransom vede da vicino i peletti ispidi e grigi che il marito spunta regolarmente con le forbicine curve durante le sue sedute in bagno. «Le infermiere mi hanno detto che imparerai di nuovo a parlare, Maurice, e io imparerò con te. Impareremo a parlare insieme». Le parole gli vorticano nell'orecchio e finiscono per essere risucchiate dentro, incomprese. Mrs. Ransom parla lentamente. È come dar la pappa a un bambino. Mrs. Ransom potrebbe quasi pulire quell'orecchio dalla ricottina di parole ignorate. Nonostante ciò, e bisogna rendergliene merito, insiste. «Non voglio certo essere ipercritica, Maurice, perché sai, non sono nella posizione di giudicare nessuno». Così gli dice che anche lei ha ascoltato la cassetta di nascosto. «Ma in futuro, Maurice, ti propongo di ascoltarla insieme, di sfruttarla per migliorare la nostra intesa. Alla fin fine, tesoro mio, il matrimonio è questione di scelte e noi qualcosa ci dobbiamo pure investire». È un torrente di parole. La taciturna Mrs. Ransom ha ormai assimilato un intero dizionario comunicativo e lo riversa nell'orecchio del marito. Parla di sintonia, sessualità, di come si possa fare sesso gioiosamente senza freni fino a un passo dalla tomba e già immagina un futuro in cui tutto ciò sarà parte integrante. Appena lui si rimetterà in piedi, faranno in modo di destinare alcune ore fisse della giornata a toccarsi. «Noi non ci siamo mai date delle carezze, Maurice. In futuro dovremo farlo sempre». Addobbato com'è di tubi, drenaggi e monitor, accarezzare Mr. Ransom da malato non è più facile che accarezzarlo da sano, sicché Mrs. Ransom si accontenta di baciargli una mano. E avendolo messo a parte della sua visione del futuro, un futuro tattile, estroverso, espansivo, le viene in mente di concludere con qualche nota del così. «Magari, pensa, è proprio quello che ci vuole per sbloccarlo». Facendo attenzione a non spostare nessuno dei tanti cavi non destinati all'intrattenimento, Mrs. Ransom sistema con delicatezza la cuffia sulle orecchie del marito. Ma prima di infilare la cassetta nel registratore, gliela tiene un attimo davanti agli occhi sbarrati. «Co-sì!» dice scandendo le sillabe. E poi, a voce un po' più alta, «Mozart!» Dopodiché accende, scrutando il viso immutato del consorte, per cogliere un pur lieve accenno di reazione. Niente. Allora alza un po' il volume, ma non troppo, diciamo mezzo forte. Mr. Ransom, che ha sentito la parola Mozart, ma non sa se sia una persona, un oggetto o un tir, si ritrae senza muovere un muscolo davanti a un fuoco di fila di suoni, per lui assolutamente privi di significato, che non hanno più logica o senso delle foglie di un albero, tranne che le foglie fanno pensare alle note e sull'albero c'è qualcuno. Trattasi di Kiri, che strilla. È sconcertante, è terribile, è assordante. Forse per l'atroce folgorazione che Mozart non ha senso, o forse perché Mrs. Ransom, non vedendo reazioni, decide di fare un ultimo tentativo e alza ancora il volume, fatto sta che i suoni cominciano a vibrargli nelle orecchie e dentro il suo cranio succede un putiferio. La fragile sacca in cui si era riversato il sangue scoppia e nelle orecchie gli risuona un ruggito più forte e trascinante di qualunque musica abbia mai udito. Segue un breve improvviso andante, poi Mr. Ransom tossisce piano e muore. Mrs. Ransom non si accorge subito che la mano inerte del marito non è più nemmeno tale. In ogni caso, anche a guardarlo o addirittura a toccarlo, sarebbe difficile capire che è accaduto qualcosa. Sul monitor il segnale è cambiato, ma lei di monitor non sa nulla. Tuttavia, dato che Mozart non sembra sbloccare la situazione, decide di togliergli la cuffia. Solo mentre tenta di districare i fili seri da quelli frivoli, nota che sul monitor c'è effettivamente qualcosa di diverso e chiama l'infermiera. Il matrimonio è parso spesso a Mrs. Ransom come una specie di parentesi, ed è appropriato che la frase con cui si rivolge all'infermiera «credo che se ne sia andato» sia a sua volta fra parentesi, e che sia quest'ultima piccola parentesi a chiudere quella più grande. L'infermiera controlla il monitor, sorride tristemente e le posa una mano affettiva sulla spalla. Dopodiché tira la tenda e lascia marito e moglie soli per l'ultima volta. Così si chiude la parentesi aperta 32 anni or sono e Mrs. Ransom torna a casa vedova. Segue un intervallo adeguato. E giacché la televisione l'ha istruita sull'elaborazione del lutto e sulle tecniche per affrontare il dolore, Mrs. Ransom osserva rigorosamente quell'intervallo. Si concede tempo più che sufficiente per accettare la perdita, continuando a essere se stessa fino in fondo, e per ciò che riguarda la vedovanza, non mette mai un piede in fallo. Quando ripensa al passato, il furto e tutto quello che è venuto dopo le sembrano una specie di apprendistato. Ora, si dice, posso incominciare. I could be different, yeah. I would be, I should be somewhere.